ad alta voce. Monica De Muro legge L'Iguana di Anna Maria Ortese. La cappella davanti al mare. Lettere da Ocagna. Inverno. Un rozzo invito. Avrai notato anche tu, lettore, come certi fatti quasi sublimi della vita abbiano la tendenza a chiudersi meschinamente o, nel migliore dei casi, a passare inosservati per far luogo a fatterelli che rapiscono, letteralmente, la comunità. Così, quando giunse a Milano la notizia che il conte non sarebbe più rientrato, infuriava sui giornali una questione, a nostro avviso, poco importante. Se consentire o no il posteggio delle macchine dietro il Duomo, questione già accantonata e ripresa mille volte, segno che urge una soluzione. E la notizia della tragedia apparve perciò in ultima pagina, col frettoloso titolo «Lutto in casa Aleardi». Basta. Se la considerazione della società per la morte di un uomo può indicare in qualche modo il valore che egli ebbe in quella società, si vide in quel momento che il conte, malgrado la corona e gli averi, era nessuno, e a ciò lo aveva portato la sua curiosa modestia. Si vide che non era, nonché temuto, neppure amato. Adelchi, poi, che più di altri avrebbe potuto soffrirne e interessarsene, attraversava giorni pazzeschi, travolto dalla possibilità di un inatteso e fantastico finanziamento che, tra parentesi, si realizzò e trasformò di punta in bianco la sua vita. Gli dispiacque sapere che l'amico non tornava più, ma rimandò il rimpianto a un momento in cui fosse meno occupato, momento che, purtroppo, non si presentò. Per la contessa madre non ci furono perplessità. Già da tempo aveva avvertito la disgregazione morale del figlio e i suoi attentati al patrimonio avevano scavato tra i due, senza che il figlio se ne avvedesse, un abisso. Era preparata a perderlo. Non così per lo Smeraldo, gemma tra le più gloriose della famiglia. Convocò avvocati, si recò alla curia, partire non poteva, dovendo recarsi in Svizzera, e qui ottenne che fosse scritto a Lisbona, che a sua volta mandò alcuni preti nella triste isola. Lo Smeraldo fu recuperato facilmente, in quanto il Bosio, che si era insediato nella casa, lo trovò con una semplice visita alla cucina. Era dietro il barattolo del sale e ve lo aveva messo Felipe, ignorando che la pietra avesse tanto valore. Il Bosio stesso ne riferì con una lunga lettera in cui confermò alla contessa madre la sua antica devozione alla casa Aleardi. Aggiunse anche, in questa circostanza, che restava in attesa di disposizioni per il rimpatrio della salma, non essendo bello che un Aleardi giacesse in quell'isola. La contessa rispose di suo pugno che se ne sarebbe occupata, ma comunque Aleardo aveva smesso da tempo di essere suo figlio e quanto poteva fare era pregare per lui. Mandò denaro per messe e le ultime 1.000 lire il 7 novembre. Poi più niente. Mentre tornava da Berna, il 10, la macchina si capovolse e la gentildonna morì. Per il Bosio, alla cui sensibilità non faceva molto piacere avere lì quella memoria del conte, non mancavano certo idee per un'altra acconcia soluzione, ma quando ne accennò ai due Guzman, capì da un breve «No, signore!» che era bene non insistere. Il daddo era stato sepolto nella parte meridionale dell'isola, su un tratto di terra confinante con la spiaggia e assai isolato. Là, il Bosio, desideroso di difendersi in qualche modo da quella vista, che sempre incontrava nelle sue passeggiate, fece costruire una cappella ancor più solitaria, che però i fratelli dotarono furtivamente di una finestra. E siccome era sul fronte del mare, non altri che le onde confuse del mare, quando si avvolgono su se stesse nell'arcano tramonto, potevano guardare nel vuoto interno. E per quanto durante la bassa marea e se erano tristi i due giovani vi si recassero, mai udirono qualcosa come una fresca risata o una pietosa voce, né, affacciandosi al bianco interno, scorsero qualche risplendente figura raccolta in una veglia. Non vi era alcuno, come giusto, essendo la bontà e la grazia cose non di questo mondo, e mai, una volta uscite con lacrime da questo mondo, Dio impone ad esse lo strazio di tornarvi. Ma benché fosse ormai lontanissimo e forse di essi dimentico, i due Guzman, che come il lettore avrà capito, serbavano sotto la maschera crudele un cuore più profondo di molti altri, mai lo dimenticarono, e si può dire che nel perenne ricordo di lui la loro vita cambiò. Altre due persone erano mutate. Il Segovia, ormai a Caracas, sposo sereno se non felice, e tutto dedito alla cura delle sue grandi terre, egli aveva lasciato completamente di scrivere. Era diventato un uomo saggio e calmo, forse un po' pingue e con una lieve tendenza al pessimismo, che però la presenza della sua signora equilibrava. Ogni mattina, alle prime luci dell'alba, era in chiesa. Si confessava brevemente di quei peccati veniali che tutti facciamo e prendeva, uscendone rinnovellato, la comunione. In questa speranza di ritrovare un giorno il conte e un mondo più disinteressato, egli trovava la pace. L'altra persona era la servetta dell'isola. Ma qualcosa, perdonaci lettore, forse il sapere quanto il conte l'aveva amata e quanto la povera anima fosse passata curva tra i silenziosi orrori di questo mondo, ci impedisce di parlarne direttamente. E ci contenteremo perciò di riferire qualche tratto di certe lettere che la signora Rubens, moglie di un gioielliere di Lilla, mandò dal piccolo hotel di Ocagna l'ottobre scorso al marito rimasto in Francia. In quanto ai divertimenti coi alludi, mio caro, credo proprio che ti sbagli. Qui c'è un'aria assai ventilata, ma anche assai triste. L'albergo da cui ti scrivo è l'unico, civettuolo ma disabitato, dell'isola. E se il prete cattolico che l'ha fatto costruire pensava di guadagnarci o invogliare le anime a purificarsi di qualcosa, non ha indovinato. Secondo me, per prima cosa manca una buona servitù. I due bifolchi di cui ti parlai non sono gli unici emeriti villani dell'isola, ce n'è altri. E c'è anche una ragazzetta che non mi piace punto. L'età può essere molta o nulla, non si vede a causa di come si pettina. Uno sgarbo istintivo e qualche trasognatezza annullano tutte le qualità, improbabili, della sua personcina. Quando ti guarda, e gli occhi per la verità sono un lago di luce nera, sono fissi e dolci, può sembrare anche buona, ma poi capisci che non guarda te, guarda qualcosa dietro di te che non ritornerà, e ciò fa una cattiva impressione. Più che deficiente, come assicura il prete, a me sembra matta, uno di quei disgraziati impasti di orgoglio e cattivo carattere che fanno la inguaribile miseria di queste isole. Mi dicono, figurati, che si è innamorata di un conte e che da qualche sua parola imprudente si sia fitta in capo che egli tornerà per sposarla, mentre mi risulta che egli si è già sposato qualche anno fa. Se ci può essere qualcosa di più triste. E da un'altra lettera. Così sono stata a visitare la tomba di questo famoso amante che mi dicono sia stato il conte, giunto e perito in questo paese 3 anni fa, cosa che non sapevo, e il modo è oscuro. Altri turisti, in stagioni migliori di questa, la visitano, ma oggi non c'era nessuno, tranne la nostra servetta. Che atteggiamento irriverente! Così tutte le mie fantasie sono cadute. Figurati che era lì, seduta sotto il muro della cappella, uno specchietto in una mano, un pettine nell'altra. Si pettinava e sembrava, Dio sa perché, contentissima. Vedendomi si è messa a ridere, mio caro, così stupidamente e insieme con tanta malizia, come se fosse certa di non so quale sua meravigliosa bellezza, che ho capito quanto il suo cuore sia in realtà disumano e insensibile a tutto. Altro che compassione. Questa gente, Cherie, ti turba, è mutevole come il mare, è dura molto, nulla la commuove se non il denaro, per quanto io stia attenta. Parli e non ti rispondono. Il loro pensiero è lì, lâchant. Non ti sembra umiliante? E da un'ultima lettera. Sto per ripartire, ti confesso, sono stupita di un fatto. Ho ritrovato le mance dove le avevo messe sul tavolino con un biglietto. Che non sappiano leggere? O le abbiano trovate magre? Si può capire che vogliono. Scusami, caro, se ti ho annoiato, ma è proprio una cosa sgradevole questo cagna, col continuo rumore del mare, sempre queste nuvole scure che passano, se muffle che ti circondano, una vera disperazione. Il Bosio partirà col mio stesso mezzo, che arriva alle 5 da Lisbona e subito riparte, ma solo l'estate, e infatti da domani non verrà più. Mi sembra, da quanto ho capito, un uomo stanco, desideroso di vita civile, deluso da qualche cosa che non so. Che Ocagna lo riveda mi sembra improbabile, come pure il fatto che il piccolo hotel veda nuovi clienti. Più tardi. Sono assai pentita, ti dirò, di non aver portato con me alcune maglie, come mi consigliasti. Qui fa già freddo e più ne farà in mare. Lontano è settembre. Qui non rimangono che i due Guzman e la serva, a cui mi sembrano molto affezionati. Povera gente, dopo tutto. Ma il vaporetto sta arrivando. A presto, chérie. Era il terzo inverno che approdava ad Ocagna, dopo i fatti che abbiamo narrati. E quando anche l'ultima ospite della pensione, insieme al bizzarro Bosio, ebbe ripreso la via della civiltà, non rimase nell'isola, oltre alla poca oscura gente del luogo, che il personale del piccolo hotel. Gente assai più saggia e buona di quanto le apparenze mostrassero. Il loro lavoro era ormai poco o nulla, e perciò, tornati a casa verso sera, passavano il resto del tempo, spesso se era piovoso e il vento fischiava anche della notte, in una occupazione che alcuno avrebbe immaginato, e tantomeno la vivace signora Rubens, ricordando le loro figure mute, i ciechi silenzi. Essi, lettore, imparavano a leggere e scrivere, molto faticosamente, ma aiutandosi vicendevolmente con molto amore. Erano sicuri così, non solo di fare onore al caro letterato lontano, sulla cui grandezza sempre si illudevano, ma soprattutto di essere in grado un giorno di indirizzare qualche missiva al conte, della cui immortalità erano certi. In ciò, la ragazzetta, che non stava mai molto bene ed era sempre disattenta, non primeggiava, pur desiderando con tutta l'umile forza del suo cuore, mentre gli zii, come da tempo essa chiamava questi altri buoni servitori, erano già molto avanti. E fu per lei soprattutto, per darle un senso di pace e di gioia e consentirle di rimettersi in rapporto col suo idolo, che una notte essi scrissero la seguente rozza poesia. Eccola, e della sua goffaggine, tu, uomo di cultura, perdonali. Invito scritto dai fratelli Guzman per amore della iguana, acciocché l'anima immortale del conte sia sollecitata a rammemorarsi di Ocagna. Presentazione del luogo. Questo è il mare. Questo è il cielo. Grigio e giallo. Pioggia e gelo. Invito vero e proprio. Primo. Aiutami. Riconoscimi. Salutami. Col mio nome chiamami, non con quello del serpe. Voglio risorgere. Secondo. Conte di Milano, non aspettare. Non voglio smeraldi. Voglio essere come te, pietoso e giusto. Terzo. Signore caro, buono, pietoso, grande conestabile, per amore del re, di Carlo V, salva la Spagna e il Portogallo, i paesi vinti, che dormono nelle alghe, nella pietra, nella montagna, nella meseta e la Mursia in Estremadura. Salva il toro, la mucca, l'agnello, salva il pellegrino, porta il lume, porta il sole, acqua, giardini. Quarto, conte di Cristo, non resistere. Vieni al pozzo, l'acqua non c'è. Non ci sono fiori, non c'è alcuno, c'è silenzio. Il serpe piange, la rana s'acquatta, c'è paura. Porta il lume, porta il sole. Ci hanno giudicati senza giudizio. Guarda nel pozzo. Se ci chiami, rispondiamo. Quinto. Non siamo morti. È novembre. Giallo e rosso dalla cisterna spunta il sole. Noi tremiamo. Sesto. Salva il toro. Proteggi la mucca e l'agnello e la stella che cade. Saluto. In Estremadura resterai, conte caro. Sopra i monti ci guarderai, griderai. Versi questi, se versi si possono chiamare, che fecero scoppiare a ridere una certa personcina, la quale altro che in questo modo o in altri più strambi riusciva mai ad esprimere la forza del suo patire, della, come disse la signora Rubens, inumana profondità del suo cuore. E con ciò, lettore cortese, ci congediamo come il Bosio e altri più fortunati da Ocagna e dalla sua umile umanità. E se del mare che si è chiuso così facilmente su questi mali e questi sorrisi e sulla figura di un cupo gentiluomo, se del tempo che passa senza sosta a Milano come nelle isole, tutto trascinando diretto all'eternità, ti sorprenderai, ricorda per favore le pressanti domande di Unamuno, così alle tue simili, e vedrai che almeno tale sorpresa rimane uguale. E questa